Lei ne tira parecchia, dico. Ma io ho smesso, non ho più. E come mai ha smesso? Perché non mi piaceva più, perché era troppo pericoloso, perché era. Pensavi di avere sempre un piede nella realtà e poi non ce l'avevi, perché sei una donna e sei più in pericolo, perché hai delle esperienze che diventano drammatiche. E quindi il gioco non vale più la candela. Allora, però mi parli della parte positiva, perché della parte nera siamo tutti capaci. Il momento in cui si prende e non ci si. Cacciatori e veline, diventi bella come una velina, sei una super figa per 10 minuti alla volta. Allora, scusi, quando tira lei sentiva una super figa al momento che tirava. Certo, come tutti quelli che cominciano, e dei superman gli altri, e di conseguenza frequenti i locali giusti, hai le macchine giuste, hai gli abiti giusti, hai le scarpe giuste, e tutto questo ti costa soldi, e quindi i soldi devi reperirli, e entri in un circolo vizioso per cui hai bisogno di soldi per farti, per mantenerti la vita di un certo livello, che è quello poi delle modelle e dei calciatori. Il problema è che tu non sei né una modella né un calciatore, fai l'operaio e resti senza soldi dopo 6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, poi cosa fai? E poi ti devi arrangiare. Ecco, questo diciamo è l'uso che diciamo è il lasciapassare, il grimaldello che ci fa entrare nel mondo dorato dei bei locali, della Costa Smeralda, dei posti della gente che conta. Ma che Costa Capita? Smeralda? Qui si parla di locali di provincia, cioè Ah, posti schifosi. no, posti schifosi, posti di provincia dove comunque. Tu sei un emerito nessuno e per una sera sei bello sciolto, sei bello tranquillo, conosci tanta Quindi diciamo gente. il papponcello danaroso di paese che ha quattro soldi e Bravo, offre cocaina brava. a ingenue e belle ragazze come lei, in capo alla settimana se le fatte tutte, perché queste, figuriamoci, gli sembra di stare alla corte Come in degli capo la dèi. settimana, un colpo, una scopata. Ah, quindi subito. Vabbè, Eh sì, devo prima. dire, io capisco come Prima si funziona. stippa.